Capitolo 5. Basilea, 28 aprile 1545. Ho sentito che siete in partenza. Vogliamo parlare di affari? Ridacchia raggiante e mi fa entrare nel soggiorno, dove scoppietta il fuoco e ci attendono due poltrone. La bottiglia di vino campeggia immancabile sul tavolo. Sembra quasi che mi stesse aspettando. Si frega le mani, sporgendosi in avanti, le orecchie tese. Proprio non riesco a non sorridere davanti a quest'uomo. Se devo investire i miei soldi, è necessario che mi spieghiate cosa avete in mente. Annuisce con ampi cenni del capo. Certo, è sacrosanto, ma in cambio voi mi direte che cosa vi ha convinto. Mi sembra accettabile. Saltella fino alla borsa da viaggio, dalla quale estrae il libretto giallo. Ecco qua, il beneficio di Cristo, di Fra Benedetto da Mantova. Questo è l'affare del momento. Il Bindoni lo ha stampato a Venezia nel 43 ed è riuscito a venderne alcune migliaia di copie. Io stesso ho contribuito a diffonderle. Il mio contratto con Bindoni mi garantisce la metà netta dei guadagni. Venite al dunque. Punta i piedi e avvicina la poltrona alla mia. L'espressione furba di chi sa di poter vendere pellicce agli svedesi. Bindoni ha del fegato, capito? Ma gli mancano i soldi e la necessaria ampiezza di vedute. Mi spiego meglio. Nella Repubblica di Venezia non è difficile vendere libri come questo, diciamo così, non ortodossi. I veneziani ci tengono a rimanere indipendenti dal Papa anche sulle questioni religiose, altrimenti il Bindoni se lo scordava di stampare il beneficio. Ma se una persona in gamba e con quel poco di scaltrezza che serve per viaggiare il mondo si incaricasse di portare le copie in giro per l'Italia, a Ferrara, Bologna, Modena, Firenze, accederebbe a un mercato potenzialmente illimitato. Occorrerebbe aumentare la tiratura. Siete sicuri che questo Bindoni è disposto ad assecondarci? Come no? I veneziani fiutano gli affari a distanza. Se anche lui non fosse interessato, troveremmo un altro stampatore in men che non si dica, capito? Venezia è la capitale della stampa. Resta muto a cercare il mio assenso, con gli occhi sbarrati. Fuori in strada, un gruppo di studenti intona una canzone volgare che si perde lungo la via. Altre miglia, altre terre, città. Immagino che dovrei essere io a viaggiare per l'Italia con le copie del libro. È un affare che divideremmo equamente, capito? Io mi occuperei del milanese e di Roma. A voi spetterebbero il nord-est, l'Emilia e Firenze. Però è indispensabile che qualcuno vada a Venezia a contattare gli stampatori e a metterli al lavoro sul beneficio. La teretta. Questo libro può vendere decine di migliaia di copie. Lo guardo storto. Ho combattuto Lutero e i preti per tutta la vita. E adesso dovrei mettermi al servizio dei cardinali innamorati di Lutero? Un servizio ben retribuito, compare. E utile a chi, come voi e me, pensa che è meglio se i libri e le idee continuano a circolare liberamente, senza tribunali dell'Inquisizione in mezzo. Non vi sto chiedendo di sposare gli autori di questo libro, ma soltanto di aiutarli a renderci la vita più facile. Forse anche a salvarcela, capito? Di nuovo silenzio. Soltanto il fuoco e un carro che passa in strada, cigolando. L'italiano sa il fatto suo. Dispensa buoni argomenti. Mesce il vino e mi offre il bicchiere. Un sospiro. Poi, in tono quasi fraterno. Amico mio, volete davvero trascorrere il resto dei giorni a Basilea? Davvero non vi venga una noia le discussioni infinite di questa gente? Siete uomo d'azione, lo dicono le vostre mani e il vostro sguardo. Sorrido appena. Cos'altro vi dice il mio sguardo? Voce bassa. Che non vi importa più molto dello scorrere degli eventi, ma ancora riuscite a farvi affascinare da un paesaggio sconosciuto. E che proprio per questo potreste imbarcarvi nell'impresa. Altrimenti non sareste venuto da me. O sbaglio? Pernà è un uomo singolare, materiale e gretto, ma allo stesso tempo acuto e raffinato conoscitore d'uomini. Unisce la sapienza dottrinale a un senso concreto delle cose, una commistione che ho incontrato raramente nella vita. Deglutisco il vino. Il gusto forte mi riempie la bocca. Lo lascio continuare. Ho appreso che non è facile frenare la sua lingua. Avete conosciuto le lettere e le armi. Avete combattuto per qualcosa in cui credevate e avete perso la causa, ma non la vita. Capitemi, Parlo del senso della vita che accomuna gente come me e voi. L'incapacità di fermarsi, di accomodarsi in qualche buco, in attesa della fine. L'idea che il mondo non è che una grande piazza su cui si affacciano i popoli e i singoli uomini, dai più scialbi ai più bizzarre, dai tagliagole ai principi. Ciascuno con la sua insostituibile storia, che racconta già la storia di tutti. Voi dovete aver conosciuto la morte, la perdita. Forse c'è stata una famiglia, da qualche parte, lassù, nelle terre del nord. Sicuramente molti amici, persi per la strada e mai dimenticati. E chissà quanti conti da saldare, destinati a rimanere aperti. La luce del fuoco gli illumina mezza faccia. Lo fa somigliare a una creatura fiabesca, un gnomo saggio e intrigante al tempo stesso, o forse un satiro, che ti sussurra segreti nell'orecchio. I suoi occhi piccoli guizzano insieme alle fiamme. Di questo sto parlando, capito? Dell'impossibilità di fermarsi. Non è giusto, non lo è mai. Avremmo dovuto fare altre scelte, tanto tempo fa. Oggi è troppo tardi. La curiosità, quella insolente, caparbia curiosità di sapere come va a finire la storia, come si concluderà la vita. Di questo, di nient'altro si tratta. Non sono mai soltanto i guadagni a menarci per il mondo. Non è mai soltanto la speranza, la guerra o le donne. C'è qualcos'altro, qualcosa che né io né voi potremo mai descrivere, ma che conosciamo bene. Anche adesso, anche nel momento in cui vi sembra d'esservi allontanato troppo dalle cose, in voi cova la voglia di conoscere il finale, di vedere ancora. Non c'è più niente da perdere, quando si è perso già tutto. Un sorriso distaccato deve essermi rimasto inciso sulla faccia per tutto il tempo. Eppure nasce dalla sensazione di stare ascoltando il consiglio di un vecchio amico. Mi tocca il braccio. Io domani parto per Milano. Vado a vendere i libri di Oporinus laggiù. Mi dovrò trattenere per un po', per sbrigare alcuni affari che ho lasciato in sospeso. Dopodiché mi muoverò verso Venezia. Se la mia proposta vi è letta, l'appuntamento è alla libreria di Andrea Rivabene, all'insegna del Pozzo. Ricordatevi questo nome. Perché ridete? Niente, pensavo alle coincidenze della vita. Del Pozzo, avete detto? Proprio così. Mi guarda, perplesso. Vuoto il bicchiere. Ha ragione. 45 anni e più niente da perdere. Non preoccupatevi, ci sarò.